Buonasera a tutti. Allora, facciamo le presentazioni. Qua c'è Maurizio Napolitano, che è ricercatore presso Fondazione Bruno Kessler, in particolare presso il Digital Commons Lab. Poi ci spiegherà magari esattamente cos'è. È anche portavoce della Open Knowledge Foundation in Italia. È presidente anche di Italian Linux Society. Non più, Non però più? Allora devi aggiornare il curriculum. Ed è anche allenatore di pallavolo. Vabbè, questo c'entra meno forse. Cristian Consonni, che è ricercatore invece presso l'Università di Trento in informatica, è membro del direttivo di Wikimedia Italia, poi vediamo esattamente magari cosa fa Wikimedia Italia, ha fatto parte anche della Funding Dissemination Committee, che è una commissione molto importante che distribuisce milioni di dollari nel mondo, e poi magari parliamo di questi milioni di dollari. No, io sono Nicola Caranti, sono un wikipediano. Un po' per moderare, in realtà l'idea che se io moderare è un po' sbagliata forse, ma questo poi lo vedremo. Cominciamo col capire di cosa stiamo parlando. Parliamo della conoscenza. Allora, vabbè, qua ho posto una citazione molto conosciuta: scienza est potentia o scienza potentia est, la conoscenza e il sapere è potere. Poi non necessariamente potere politico, però comunque si possono fare delle cose, diciamo, con il sapere. Vedremo qualche esempio. Secondo punto, però, ci interessa la condivisione, cioè noi parliamo di una conoscenza che, non, una conoscenza che è libera. In questo caso, vedete, knowledge is free, cioè la conoscenza è libera, la conoscenza deve essere libera. Ricordiamoci una cosa, perché ricordiamoci una cosa, perché ho messo una mela, non è un riferimento al Mac, all'Apple, perché allora, in realtà è una citazione, forse l'avete già sentita, se io ho un'idea, cioè se io ho una mela e tu hai una mela, se ci scambiamo le mele, alla fine ognuno di noi ha sempre una mela, quindi alla fine non ci guadagniamo niente, oggi magari una mela più buona dell'altra, quindi qualcuno ci guadagna. Ma se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce le scambiamo, alla fine ognuno di noi ha due idee, quindi nessuno in realtà ha perso niente quando parliamo di conoscenza. Questo è un po'. Allora, la prima domanda che voglio fare a Cristian e a Maurizio, però, ecco, no, non sono domande difficili, è: quando parliamo di condivisione, cosa intendiamo quando parliamo di condivisione delle idee? Perché anche noi parlando qui stiamo condividendo delle idee in un certo senso. Però quando parliamo di condivisione delle idee, nel senso che vogliamo parlarne, parliamo di una cosa un po' diversa. Allora chiederei a, non so, Maurizio, magari o Cristian, di spiegare un attimo cosa intendiamo in termini generali. Perché condivisione delle idee, condivisione della conoscenza, che era quello che appena detto Niccolò, io parto sempre da questo esempio abbastanza banale. Se andiamo a guardare nelle caverne dove è nata l'umanità, ci troviamo i graffiti, dei racconti che non fanno altro che condividere cos'era la storia del tempo. È una memoria che viene riportata, però è anche una memoria che dice, ad esempio, se quella zona lì era pericolosa o meno. Quindi condividere la conoscenza è un problema dell'umanità da sempre. Siamo animali sociali, abbiamo bisogno di conoscere. E quindi di fatto è semplicemente far circolare informazione che serve poi a far crescere la società. Un'essenza, una cosa molto semplice, perché bene o male le informazioni ce le scambiamo tutti i giorni. Dopo, quando queste informazioni poi si sommano, diventano cultura, diventano delle cose molto importanti su cui dopo noi ci andiamo a sviluppare. Nel passato c'è sempre stata la condivisione della conoscenza, ma anche adesso c'è la condivisione di conoscenza. Grazie però alle tecnologie adesso questo è molto più accelerato. Pensate banalmente, racconto sempre questa storiella scema. Una mia amica un giorno era entrata in un negozio con il seggiolino e con la carrozzina della bambina. Il negoziante si è arrabbiato e l'ha trattata male. E lei praticamente per vendicarsi ha diffuso questa informazione. Ai tempi, diciamo, nel XX secolo, 10 anni fa, 15 anni fa, avrebbe detto agli amici: guarda che quello lì è antipatico, si comporta così. Invece ha detto: lo condivido su Facebook. E ha condiviso questa informazione che molto velocemente ha portato negativamente il messaggio di questa persona. Chiaramente questo è un esempio molto banale, sciocco, però è per dirvi soltanto quanto il software accelera tutto quanto, quando la divulgazione della conoscenza, che è un problema che abbiamo sempre avuto, permette di fare questo. Lascio parlare a Cristo perché finisce parole. Quello che ha detto Maurizio è sicuramente un punto. Un altro punto rispetto alla conoscenza libera è che diciamo che è una conoscenza che rispetto al modello del copyright tradizionale, quello di tutti i diritti riservati, in progetti come Wikipedia e OpenStreetMap, che saranno i progetti di cui parleremo dopo, in realtà esistono questi sistemi che appunto permettono a tutti di modificare, distribuire liberamente questo materiale, quindi al contrario del sistema di tutti i diritti riservati, una persona comune può partecipare nello scrivere, nel contribuire a questi progetti e perché appunto c'è stata questa evoluzione da quello che dopo il web, cioè dopo l'avvento di internet, si è passati a quello che si chiama web 2.0, in cui le persone possono dare il loro contributo e ci sono i contenuti generati dagli utenti. E Wikipedia e OpenStreetMap ne sono degli esempi, cioè non è più un modello in cui ci sono delle persone che pubblicano dei contenuti e delle persone che li leggono, ma tutti sono sia fruitori sia creatori di contenuti. E quindi avviene grazie al fatto che ci sono questi modelli, appunto queste licenze libere, per esempio Creative Commons, e quindi conoscenza libera anche in questo senso qua. Sì, posso dirlo un'altra cosa in un altro modo? Dicevamo prima io lo scambio delle idee, che le cose si moltiplicano, cioè però adesso non voglio entrare nei dettagli del copyright, il punto è che il copyright interviene per dire no, guarda che questa cosa qua l'ha creata lui, quindi è sua e basta, tu non puoi usarla. Per esempio l'idea della condivisione della conoscenza libera è dire no, aspetta, tu puoi usarla, adesso vediamo, poi più avanti adesso vedremo esattamente però come, che non è che si dice rubiamo le cose agli altri eccetera. Sì, posso aggiungere una cosa sul diritto d'autore eccetera? Sì. Una cosa semplicissima: la necessità di condividere conoscenza c'è sempre stata, dopo c'è anche stata la necessità di tutelare questa conoscenza, però ad esempio nel caso dei brevetti, quando è un'idea bellissima che poteva cambiare il mondo, dato che comunque produrre questa cosa non era facile, erano pochi che lo facevano, allora si diceva creo il brevetto, ti do un'esclusiva. Tu per tot anni, al tempo era, adesso è 20 anni, puoi trarre vantaggio da questa idea e tra 20 anni diventa patrimonio del mondo. Quindi i sistemi di copyright in realtà nascono per favorire la conoscenza e per tutelare chi l'ha fatto. Così, l'ultimo esempio che faccio, il diritto di pubblicazione, se andiamo a pensare al tempo di Gutenberg, cosa voleva dire stampare, era un diritto mica da poco, perché l'investimento per poter creare un libro costava tantissimo. L'idea di diritto di pubblicazione prima non c'era. Allora, io faccio un investimento per stampare il suo libro. Lui non ha la possibilità di stamparlo, chiaramente parlo di qualche secolo fa. Viene da me, che invece ho il mio capitale, ho investito su questo, chiaramente voglio l'esclusiva perché voglio leggere il suo libro, vedere se quello che investo funziona, e a questo punto mi prendo il diritto di pubblicazione. Se la ragioniamo nella sua natura, tutte queste cose non è che sono cattive, nascono invece per favorire la conoscenza e tutelare chi ha fatto queste cose. Il problema è che, come poi ha toccato Cristian, che quando le cose si accelerano e quando vogliamo essere tutti persone che pubblicano, perché se pensate adesso che uso Facebook, che uso WordPress, che uso un blog, qualsiasi cosa, la parola pubblica ce la troviamo scritta ovunque. Diritto di pubblicazione, pubblica, viene da tutte le parti, quindi adesso pubblicare non è più il costo di una volta, è molto più semplice. Però purtroppo ci siamo portati dietro anche degli aspetti che sono più legati alla parte commerciale più che alla parte di condivisione, e allora per questo nascono i meccanismi, che adesso immagino che produrrà voi, attraverso cui possiamo riutilizzare questo. Allora, adesso andiamo qua. Non fa? No, va. Ok, scusa, per te ho saltato una cosa. No, ecco, questo... Ok, forse... Questa è tua, Maurizio, se vuoi andiamo dopo. No, la dico subito. Quattro parole che sono in inglese: dati, informazione, presentazione, conoscenza, no? Allora, conoscenza è chiaramente condividere, in questo caso condividiamo una torta e tutte le persone mangiano torte e preferiscono mangiare torte. Però per arrivare a fare la torta servono un po' di ingredienti. È una lunga filiera in cui prendiamo i dati, dai dati creiamo informazione, le informazioni li presentiamo, poi dopo creiamo conoscenza. Quindi spesso e volentieri noi ci troviamo degli oggetti, soprattutto nel mondo dell'informatica, che sono delle torte belle fatte. Però tutto quello che serve per migliorare la torta o per sapere il processo spesso non è disponibile. Quindi qua il messaggio che vogliamo dare con questa immagine è che per creare conoscenza servono un sacco di pezzettini che ci sono necessari. Da dati crea informazione. Il dato cos'è? Oggi Maurizio, Cristian e Nicolò sono venuti qua, un fatto oggettivo. Poi che informazione danno? Quel giorno vi parleranno di condividere la conoscenza e da lì possiamo andare a raccontare l'articolo che magari domani uscirà, che dice questo. Magari per questo articolo poi verrà utilizzato da altre persone magari, se c'è stato un arricchimento di quello che abbiamo raccontato, condivideranno questa conoscenza, quindi abbiamo trasmesso questo. Ma se vogliamo andare a recuperare tutto al contrario, abbiamo bisogno di ogni pezzettino, perché in fin dei conti, se vogliamo creare una torta, che anche quello lì è una conoscenza condivisa, come creare una torta, se conosciamo la ricetta e abbiamo la possibilità di introdurre nuovi ingredienti, possiamo creare nuove torte. Ed è lì il messaggio che vogliamo darvi con questa immagine, che la conoscenza si crea soprattutto sul passato, su quello che hanno fatto gli altri, sulle torte che hanno fatto gli altri. Se io so come sono fatte e nascono anche nuovi ingredienti, io posso creare nuove torte. E quindi la conoscenza che si crea sul passato e tutte le componenti che servono a comporlo sono fondamentali. Perché spesso e volentieri per arrivare a scrivere il libro ho bisogno di sapere tutte queste informazioni che ci sono prima, il passato e i dati che mi permettono di dire. Ecco, questa, ah, okay, questa è un'altra... Ah, ok, vabbè, al contrario. No, poi adesso faccio parlare Cristian. Vabbè, allora. Possiamo spiegare anche questa. Si riesce a leggere il gattino dentro al server? Fidatevi, sono un ingegnere. Sì, in realtà praticamente questa immagine qua l'ho usata per degli ingegneri. Comunque, un altro messaggio importante, sempre legato alla conoscenza, che era poi quello che raccontava Cristian. Il fatto che ci sono degli strumenti, come Wikipedia, attraverso cui riusciamo a costruire conoscenza e condividerla in fretta. C'è questo personaggio che è Clay Shipley, che l'ho scritto in basso, un sociologo, che parla di questo concetto del surplus cognitivo. Lui parte con la rivoluzione industriale e dice che con la rivoluzione industriale nasce un problema che prima non c'era: come trascorrere il tempo libero. Con la rivoluzione industriale le persone trascorrevano il tempo libero bevendo gin. Il bere gin vi sembrerà sciocco, ma il tempo ha cambiato la società. È stato ad esempio il primo caso in cui le donne hanno iniziato a bere alcol. Le operaie avevano tempo libero e alla fine, come passiamo questo tempo libero? Facciamo un bel salto, arriviamo alla mia generazione, che è quella di Clay Shirky. Come ammazzava il tempo? Guardando le sitcom, stando seduto sul divano. Come ammazziamo il tempo invece adesso le nuove generazioni? E qui ci sono due esempi. C'è quello del gatto che vedete là dentro, che in realtà si chiama lolcats. Lol è una parola in inglese per dire mi stai facendo rotolare delle risate, gatti che ti fanno crepare dal ridere. E praticamente c'è una comunità di persone che creano foto di gattini in cui scrivono sopra frasi stupide. Ma qua io non sono capace, io lo posso sistemare, credimi, io sono un ingegnere, è una battuta perché se il gatto ha messo le lettere fa questo. Dall'altra parte le persone possono creare degli strumenti come Wikipedia, la pagina sotto sarebbe la pagina in inglese che spiega cos'è la parola ingegnere. Allora, queste due cose, Clay Shirky dice, adesso è vero che Wikipedia ha un valore molto più alto per la società, ma anche l'Holcats, comunque, le persone non sono più passive a guardare la televisione o a ubriacarsi col gin, usano la loro creatività. Che usi la tua creatività per fare una pagina Wikipedia o che tu usi la tua creatività per fare un l'Holcats, ok? Wikipedia, ripeto, ha un valore un po' più nobile, però alla fine stai usando creatività. E per fare il gattino, scegliere la foto, trovare la frase, trovare il font giusto, eccetera, stai iniziando a sviluppare delle capacità che prima non usavi. Ma è come quando vogliamo andare, anche se non è un'azione molto bella da fare, andare a scrivere una frase sul muro, però abbia sei qualcuno, perché ho imparato a scrivere e lo sto usando per dare un messaggio. Quindi il messaggio è che col surplus cognitivo, ossia il tempo che noi usiamo per stimolare la nostra creatività, possiamo fare delle cose molto potenti. Possiamo fare Wikipedia, possiamo fare l'Holcats. In futuro ci saranno più l'Holcats che pagine di Wikipedia, non lo metto in dubbio. Però parto anche dall'idea che, facendo una distinzione tra periodo, io dico guerra e pace, guerra è quando voglio cambiare il mondo. Tipo la mia amica che si è arrabbiata con quell'altro che l'ha cacciata perché col seggiolino stava rovinando il pavimento. Pace invece è quando, scusate il termine, cazzeggio, non ho problemi e faccio tanti lockdown. Però probabilmente una volta che voglio cambiare il mondo, lo cambierò con gli strumenti che ho imparato. Tramite il suo plus cognitivo aumenta la possibilità di imparare gli strumenti e quindi imparerò a fare delle cose sempre più importanti che nei momenti di difficoltà mi aiuteranno a cambiare, a modificare le cose. Tutto questo nasce da condivisione della conoscenza e possibilità di strumenti per rendere la conoscenza molto piacevole. Quante lezioni ci sono su YouTube? Quante pagine sono su Wikipedia? Quando ho ottenuto abbastanza conoscenza per poter capire YouTube, capire Wikipedia, eccetera, posso anche andare a fare una lezione domani. Poi è chiaro che la qualità sarà quella che farà la differenza. Però con calma, un passo alla volta, abbiamo delle opportunità che prima non c'erano. Esatto. Allora adesso Maurizio ci ha introdotto a Wikipedia, di cui facciamo parlare Christian. A quante pagine ha Wikipedia innanzitutto? Allora, in italiano sono oltre 1,5 milioni, le voci, cioè quindi le vere e proprie pagine dell'enciclopedia, in inglese sono oltre 5 milioni, il traguardo è stato superato 3 settimane fa. Wikipedia esiste in più di 280 lingue, tra cui alcune lingue anche artificiali come l'esperanto, cioè lingue che sono state create. E altre lingue più strane, ci sono anche i dialetti, quindi ci sono anche per esempio il siciliano, l'emiliano romagnola, il friulano, eccetera eccetera, cioè quindi sono dialetti. E qual è la cosa notevole di Wikipedia, per riallacciare quello che diceva Maurizio, è che Wikipedia è la somma di questo surplus cognitivo di tantissime persone. Cioè, internet come strumento ha dato la possibilità a tante persone di mettere insieme le loro conoscenze e di creare questi progetti unitari, cioè che sono unici e che prima non esistevano. È un fenomeno che viene anche detto la saggezza della folla. Perché c'è una bellissima frase a proposito di Wikipedia che dice: Wikipedia in teoria non dovrebbe funzionare, ma in pratica funziona. Perché in teoria non dovrebbe funzionare? Perché Wikipedia è un sito dove tutti possono modificare le pagine. Voi adesso potete prendere il vostro computer, tablet, telefonino, smartphone, andare sulla pagina di Wikipedia e troverete un tastino che si chiama modifica. Voi potete cliccare il tastino modifica e state modificando una pagina. Scrivete, salvate e quella modifica è subito visibile. Non c'è nessun tipo di filtro, non c'è nessun tipo di controllo a priori, ok? Ci sono dei controlli a posteriori, nel senso che se voi scrivete una parolaccia, magari io passo di lì, la leggo e dico: no, questa è una parolaccia, e modifico anch'io e la elimino. Però non c'è un filtro preventivo. E appunto la teoria dice, cosa dice la teoria? Bah, voi lasciate a chiunque la possibilità di modificare la voce la meccanica quantistica, i buchi neri, oppure l'energia nucleare, oppure la storia del Trentino, o la pagina di Nogaredo, cosa succederà? Succederà che è questa qui, peraltro, questa presa oggi. Cosa succederà? Succederà che ci sarà un sacco di spazzatura, ci sarà la gente che scrive le parolacce, ci sarà la gente che scrive le cose per ridere, eccetera. E questa è la teoria però, perché in pratica le cose funzionano. Perché funzionano? Perché le persone amano condividere la loro conoscenza. Ci sono più persone che contribuiscono in modo positivo che non in modo negativo. Sempre per citare Clay Shirky di prima, diceva: Wikipedia è una cosa meravigliosa perché voi ogni volta che aprite una pagina di Wikipedia sapete che i buoni hanno vinto sui cattivi, cioè sapete che ogni volta che apri una pagina e la trovi ancora intatta. Sì, hai ragione. Ogni volta che leggete qualcosa di utile su Wikipedia vuol dire che l'insieme di tutte le persone che hanno contribuito a Wikipedia o che potenzialmente possono contribuire a Wikipedia in maniera positiva hanno vinto su quelli che vogliono contribuire in maniera negativa e che vogliono contribuire per distruggere, ok? E che nel gergo di Wikipedia si chiama vandali. E quindi lui diceva: Wikipedia è una cosa bellissima perché io ogni volta che la apro e leggo qualcosa di utile so che il bene sta vincendo sul male. E forse così è un po' troppo drammatico, però è esattamente questo. È il fatto che ciascuno può dare un contributo anche piccolo, posso correggere un errore di battitura, posso mettere una virgola dove mancava, posso mettere una foto della piazza del paese, però la somma di tutti questi piccoli contributi fa qualcosa di più grande e noi qui abbiamo messo la pagina di Nogaredo perché peraltro una cosa che si vede è che in cima, cioè non si vede tanto a dire la verità, perché non si legge fino là in fondo. Però vedete che là in cima c'è quell'avviso, quel libro quadrato arancione. Quel quadrato arancione significa, è un avviso che significa guardate che le informazioni che sono scritte in questa pagina necessitano di fonti. Cosa sono le fonti? Le fonti sono, sono la farina e le uova che abbiamo visto nella metafora prima della torta. Cioè le pubblicazioni, i libri, che magari possono essere pubblicazioni scientifiche, che poi magari possono essere libri che sono prodotti dalla Prologo, che magari possono essere libri di storia, che ti permettono di verificare le informazioni che sono scritte in Wikipedia. Perché c'è la classica domanda che è, ma Wikipedia è affidabile? Qual è la... Allora, sicuro voi magari vi aspetterete che io adesso arrivo qui e vi dico, ah sì, voi dovete fidarvi di Wikipedia perché Wikipedia è bellissima. In realtà non è, io non vi sto cercando di vendere Wikipedia, anche perché... A casa vostra l'enciclopedia in volume. Esatto, io non, nel senso, io vi voglio solo spiegare cos'è Wikipedia e come funziona, e per farlo correttamente vi devo dire che è vero, se leggete qualcosa di utile vuol dire che il bene in generale ha vinto sul male, ma può darsi che nella pagina di Nogaredo qualche burlone abbia inserito qualche informazione falsa o magari cambiato qualche nome per ridere. Quindi in realtà questo è quello che vi devo dire, è che sappiatelo, quello che vi dicevo prima è vero, tutti possono modificarla, possono modificare Wikipedia, quindi si possono anche trovare degli errori, delle imprecisioni, delle mancanze e quindi quando la leggete fatelo con il proverbiale grano di sale. Se volessi fare un passetto in più potrei dirvi guardate che in realtà dovete farlo con tutto, cioè nel senso che anche l'enciclopedia tradizionale cartacea aveva lo stesso problema, solo che magari era meno visibile, cioè nell'enciclopedia cartacea voi non trovavate l'avviso che vi diceva ah guarda qui manca qualcosa, mancano delle fonti, su Wikipedia sì. E questo secondo me appunto è un vantaggio di questo genere di progetti collaborativi, cioè il fatto che appunto per far funzionare le cose bisogna anche evidenziare i problemi, bisogna anche mettere i problemi in primo piano. Anche la settimana scorsa riguardo la mancanza di quello che vedo, manca un'immagine che è l'immagine di solito che accompagna l'inizio della voce. La settimana scorsa abbiamo parlato di Wikilove Moments, quindi della possibilità di chiedere agli utenti di fotografare, di lasciare le immagini a Wikipedia, perché come in questo caso la fotografia del municipio ci sarebbe stata molto più. Esatto, però appunto qualcuno ce la deve mettere, nel senso magari uno è abituato a leggere Wikipedia e pensa che ci sia sempre, che ci sia, che esista in qualche modo magico, in realtà deriva dal fatto che tutti danno il loro contributo. Sì, infatti il bottone modifica, che adesso prendo da lì non ci sta a leggere, ma cioè su questo chiedo di fidarvi, è lì e funziona, è davvero lì, nel senso che voi cliccate, salvate, la vostra modifica è immediatamente visibile. E per esempio, ecco, vi faccio vedere, scusate, uno degli altri bottoni qual è? Cronologia. Nella cronologia potete vedere tutta la storia della voce, potete vedere chi ha scritto la voce, non troverete magari il nome e cognome, in questo caso trovate Sirio, trovate Feltre, Urbs, qualcosa che non riesco più a leggere, sono comunque sono nickname, però potete vedere la voce come era all'inizio, quando è stata creata magari 20 anni fa, potete vedere le modifiche che sono state fatte oggi. E il punto importante qual è? Se anche voi fate un errore, o mettiamo che voi invece siete dei vandali, Quindi decidete, no, io non mi piace Nogueredo, cancello tutta la voce su Nogueredo. In un istante un altro utente, chiunque, può recuperare tutto quello che voi avete cancellato. Quindi non solo non potete fare danni anche se volete farli, ma se soprattutto non volete fare danni potete provare, e se sbagliate qualcosa non è grave. Non muore nessuno. Sì. Esatto. Guardare la cronologia di una pagina è sempre importante per far vedere quanti occhi l'hanno guardata e per capire anche quanto interesse c'è. Personalmente sono rimasto un po' imbarazzato, ma non è, vuole essere negativo, quando ho visto la pagina Ugaredo così povera, spero di trovarla più ricca, spero che magari domani sarà più ricca, non lo so. Però ci sono gli esempi, non so se volete parlare dopo, di Trentino, dove invece la pagina del comune o altre pagine sono state... Sì, guarda, visto che me la lanci lì, ricordo un professore, tra l'altro di sostegno alle medie, insieme a un professore di musica alle medie, di CLES, hanno iniziato a fare un progettino con i bambini delle medie su CLES, e la pagina di CLES è impressionante quante cose ci sono dentro, quante cose vengono raccontate. E tra l'altro diceva che la cosa del pallavolo, ho allenato a CLES, c'è anche il fatto che io ho allenato a CLES. C'è la storia della squadra di pallavolo, perché a un certo punto era arrivata anche, aveva vinto la B1 per andare in A2, avevano Lorenzo Bernardi, giocatore di forte. La pagina di CLES è talmente ricca, guardavo oggi, che addirittura l'hanno ridotta a sottovoci per la complessità della pagina che ha il comune adesso. Perché l'anno Santa Giustina, che è partito come capitolo all'interno del comune di CLES, adesso è diventata una voce autonoma. Da tanto quanto è sempre poi sul caso questo di CLES. L'altra parte interessante era che l'insegnante è arrivato a quei ragazzini e ha iniziato a farli inserire dentro Wikipedia. Si è iniziato a scrivere, poi sono trovate persone tipo loro due, eccetera. Che vedendo che qualcosa non tornava, dicevano mancano le fonti, guarda che quello che stai scrivendo non è neutrale, e quindi si è instaurato un dialogo con altre persone per andare a costruire un bene comune che è la storia di CLES, attraverso poi uno scambio di informazioni. Poi adesso non so se Cristian ha partecipato, però Cristian non è trentino, però magari lui in quel momento lì, accorgendosi che la pagina di CLES non è scritto bene, mi sei tranquillo, a conoscere meglio il Trentino, e intanto dà delle informazioni a questi ragazzi e ragazze per iniziare a lavorare meglio su queste cose. Quindi diventa un arricchimento molto più forte, perché comunque la condivisione della conoscenza, io lo dico sempre, parlavo di torte prima, adesso parlo di carbonara. Se vogliamo fare la pasta alla carbonara, perché quando parlo di pasta alla carbonara c'è sempre il caos, la pancetta, no, il guanciale, no, la pasta corta, la pasta lunga, il pecorino. Se ci mettiamo qua non riusciamo, forse usciamo, che almeno abbiamo due o tre idee diverse su come fare la migliore pasta alla carbonara. Quindi la condivisione di conoscenza porta a questo, con questi strumenti, e la cronologia, vi ripeto, è fondamentale per capire. C'è un'altra pagina che è fondamentale. Scusate. Che è la pagina di discussione. Vedete, questa per esempio è la prima parte, la pagina di discussione di Nogueredo. Questa è la seconda parte. Cristian, cosa serve la pagina di discussione? Sì, la pagina di discussione è una pagina che esiste per ogni voce, ok? Quindi la pagina di Nogueredo ha la pagina di discussione sulla voce Nogueredo, la pagina sulla voce, non so, buco nero avrà la pagina di discussione relativa. Un fisico. Io sono un fisico, per questo che tiro fuori è una cosa che ci fa bene. A cosa serve questa pagina? Serve per permettere a tutte le persone che hanno voglia di contribuire a questa voce di avere un posto dove comunicare, quindi dove poter segnalare problemi, dove poter proporre delle modifiche, dove poter insomma accordarsi per migliorare la voce. Perché? Perché su Wikipedia la voce viene costruita attraverso il consenso. Cos'è il consenso? È il fatto che non si decide per votazione, cioè non è che io voglio inserire la data di costruzione della chiesa, okay? Non c'è bisogno che chiedo che venga votato questo o quest'altro. Sì, anche qualora ci siano degli argomenti controversi, si cerca di discutere e di trovare una soluzione che vada bene a tutti, che non vuol dire necessariamente un compromesso. Cioè, se io dico che la chiesa di Nogaredo è stata costruita nel 1820, sparato un numero a caso, e qualcun altro dice è stata costruita nel 1840, la risposta corretta non è che la chiesa è stata costruita nel 1830, perché non è che diciamo, facciamo la media e siamo tutti e due contenti. No, perché la cosa di prima è la questione delle fonti, cioè se io ho una fonte a cui posso fare riferimento, io posso riportare quella fonte che dà una affidabilità all'affermazione che io vado a inserire nella voce. Può capitare, nella storia capita, l'esempio che mi piace fare è quello di Cristoforo Colombo. Se voi andate a leggere la pagina di Cristoforo Colombo, nelle prime righe probabilmente ci troverete scritto che gli italiani dicono che è genovese, i catalani dicono che è catalano, gli spagnoli dicono che è spagnolo. Tutte queste informazioni in realtà sono ciascuna supportata dalle fonti, perché tipicamente cosa succede? Succede che magari studiosi diversi hanno proposto ricostruzioni diverse, quindi in realtà le spiegazioni, se vogliamo, sono tutte giuste, posto che siano spiegate bene. Un altro esempio magari un po' più facile da capire, il volo, la storia dell'aviazione. Pensavo il gruppo che ha vinto Sanremo. No, la storia dell'aviazione. Nel mondo anglosassone sono i fratelli Wright che hanno fatto il primo volo, che è il primo volo su un aeroplano più pesante dell'aria, quindi non su un dirigibile o su una mongolfiera. E se andavate su Wikipedia in francese, c'era scritto che il primo volo invece era stato compiuto, guarda caso, da un francese. E com'è la storia? In realtà avevano ragione entrambi. Perché? Perché i fratelli Wright sono stati i primi a fare un volo ascendente, cioè a partire da un punto più in basso, arrivare a un punto più in alto, ma questo francese effettivamente è stato il primo a fare un volo, quindi staccandosi da terra, però discendente. È caduto. Arrivando, non precipitando, ma arrivando in un punto più basso rispetto a quello dove era partito. E la cosa appunto notevole è che queste due affermazioni facevano parte, se vogliamo, di due culture differenti, però entrambe erano supportate dalle loro fonti e quindi, anche se erano in qualche modo contrastanti, se messe nel giusto contesto, potevano convivere effettivamente dando una descrizione più accurata e più completa di quella che è la storia del mondo. Questo fatto dell'utilizzare le fonti, questo fatto del riferirsi insomma alla conoscenza che si trova nei libri è fondamentale, perché permette appunto che le cose vengano sviluppate in maniera collaborativa, cioè perché non c'è bisogno che io gridi più forte di Maurizio, ma semplicemente noi ci rifacciamo alle fonti e possiamo documentare bene quello che scriviamo nell'enciclopedia. Qua ci sono alcuni punti forse che vale la pena sottolineare. Allora, uno è le fonti, appunto, cioè voi quando leggete Wikipedia, noi che scriviamo su Wikipedia non vi chiediamo di fidarvi di noi, diciamo guardate, qui ci sono le fonti, fidatevi delle fonti, o meglio, se volete potete verificare le fonti, noi vi diciamo questa informazione è tratta da questo sito, da questo libro, voi se chiaramente state semplicemente ricontrollando la trama dell'ultima puntata di una certa serie, di una stagione della serie TV, allora magari non è una questione di vitale importanza. Se è una cosa importante, noi diciamo guarda, questa è la fonte, vuoi verificare, vuoi approfondire, vai a vedere lì, e questa è una cosa molto importante. Seconda cosa, le varie versioni linguistiche di Wikipedia sono indipendenti, cioè non è che se io creo una voce in italiano di una cosa che si dà in inglese devo per forza tradurre, no, se voglio posso, ma posso anche scriverla da capo indipendentemente. E può anche succedere che una voce in inglese non c'è in italiano, ovviamente, visto che sono 5 milioni di voci in inglese, 1,5 milioni in italiano, ma anche il contrario, può essere una voce che c'è in italiano e non c'è in inglese. E poi una cosa, ecco, forse sottolineare, chi è che decide? Cioè, c'è una redazione, c'è il caporedattore che dice qua facciamo questo, qua facciamo quello? No, non esiste una redazione sostanzialmente, come vi dicevo prima, tutto nasce dalla discussione tra gli utenti. L'unica, se vogliamo, differenza è che se si registra un proprio nome utente, e per farlo basta scegliere un nickname, non è neanche necessario inserire un'email, per cui è su Wikipedia appunto la privacy e la possibilità di fare modifiche anche in maniera anonima è molto importante. Se volete parliamo del perché di questa cosa è così. Se uno però registra una propria utenza, ha la possibilità di avere lo storico di tutte le modifiche che ha fatto. Cioè io mi sono registrato un mio nome utente e posso andare indietro a vedere il primo giorno nel 2007 in cui ho fatto la prima modifica a Wikipedia. E semplicemente appunto su Wikipedia diciamo non esiste l'autorità, non esiste il fatto che questa cosa è così perché lo dico io, perché ho ragione, ok? Ma si costruisce la propria reputazione con i propri contributi e con la propria storia appunto di contribuzione al progetto. E quello che dovrebbe parlare sono le modifiche che uno fa e il fatto che uno riesca a supportare le proprie modifiche con delle fonti. È una cosa abbastanza esasperante a volte, nel senso che io so di avere ragione, ma se qualcuno dice no, ma non sono convinto, così inutile essere da nessuna parte. Però complessivamente funziona. Ah, ecco, poi qua vi faccio vedere un attimo Commons. Parlavamo di immagini, allora faccio breve: tutte le immagini che trovate su Wikipedia, quasi tutte, sia che siano su Wikipedia in italiano, su Wikipedia in inglese, eccetera, stanno su Commons. In questo caso, categoria Nugaredo, non sono immagini, ci sono però due sottocategorie, e c'è quindi Palazzo Lodron, sono alcune foto, e Castelnuovo di Noarma, ci sono alcune altre foto. Quindi se voi volete fare delle foto della piazza di Nugaredo magari vista un po' dall'alto, eccetera, potete farle, le caricate su Commons, le trovate su Wikimedia Commons, e poi potete usarle su Wikipedia a quel punto, e possono essere utilizzate anche su Wikipedia in inglese, su Wikipedia in altre lingue, in cui c'è la voce su Nugaredo. Quindi per esempio a me, io faccio delle foto persone famose e poi vado a inserire in lingua che non capisco minimamente, che è in giapponese, anche solo riuscire a capire cosa sto facendo è molto difficile, però appunto i modi di contribuire sono tanti. Magari qualcuno mi chiede ma tu di che argomenti ti occupi, io magari mi occupo di alcuni argomenti che mi interessano, poi posso correggere la grammatica in qualunque voce, posso inserire foto di persone famose che non so neanche di cosa parlino, insomma è abbastanza. Quindi, quelle cose che potete fare sono tante. Esatto. Trovate immagini anche, potete anche mettere su immagini che magari non sono immediatamente utili per Wikipedia. Cioè se voi fate 10 foto della piazza di Nugaredo, non è che tutte le metterete nella voce su Nugaredo, sennò diventa tutta. Però potete metterle lì e prima o poi per qualcuno possono essere utili. Quello che dice però Nicolò, potete inserire le foto che avete fatto. Sì. Perché il messaggio è: se io ho scattato la foto è mia. Poi dopo se un altro problema lo lascio vedere a loro, la foto è mia, ho tutti i diritti e io posso cedere questi diritti, e quello che cedo in questo caso qua ad esempio è la fotografia è online e devi ricordarti che l'ho fatta io, oppure potrebbe essere la fotografia online ma non deve essere sempre disponibile a chiunque. Sono varie differenze su cui non voglio entrare troppo, però il messaggio importante è questo, perché ad esempio, sempre tornando alla pallavolo, un giorno lui mi fa: ma la conosci Raffaella Folì? Sì che la conosco, una ragazza totterina che gioca in nazionale. Ed era arrivata una discussione su Wikipedia che praticamente c'era una fotografia che a lei non piaceva. Allora ho detto: dammi una fotografia che vediamo di metterla dentro. Ma scattata la fotografia che c'era scritto sopra copyright fotografo XY, questa non la possiamo mettere, anche se la tua faccia, perché comunque non è tua. Allora, quando inserite foto, ricordatevi questo, stiamo costruendo sempre un bene comune. Quindi è importante che quello che abbiamo il diritto di riusarlo, e quando lo mettiamo disponibile sappiamo cos'è il vincolo che stiamo creando, perché a un certo punto non possiamo dire: lui fa le fotografie a personaggi famosi, le mette, domani se le trova sulla copertina dell'Espresso, non è che può dire: attenti, ma avete preso la fotografia, l'ha messa su Commons e ha dichiarato non so che licenza sceglie lui. Se c'è scritto sopra foto va Nicolò Caranti, a posto. Se non c'è scritto sopra foto va Nicolò Caranti, che è l'unica cosa che magari ha chiesto che deve essere riconosciuta, allora può lamentarsi. quel caso lì. Però in un altro caso, se la fotografia è stata rilasciata con una licenza aperta che chiunque la può riusare, che venga riusata, ricordiamoci questo, perché alcune volte sono delle violazioni pazzesche di cose che ci sembrano sciocche. Sì, perché uno dei temi più importanti, no? Licenza aperta, licenza chiusa. Sì, adesso ci arriviamo. Io rimando un attimo questa discussione perché adesso arriviamo a vedere un confronto fra una licenza aperta e licenza chiusa per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Quello che mi preme sottolineare è che su Wikipedia siamo molto attenti al copyright, cioè sono un sacco di siti in cui io prendo una cosa da una parte, la butto su e nessuno mi dice niente. Quindi su Wikipedia, siccome vogliamo che quelle cose possano essere riutilizzate anche da altri, allora vogliamo, cerchiamo di garantire che le cose effettivamente possano essere utilizzate. Perché se io prendo una foto che c'è qua, la scannerizzo, la metto su Wikipedia, la foto, la scannerizzazione magari l'ho fatta io, ma la foto non l'ho fatta io, non posso farlo, insomma. Ma questo poi ci arriviamo un attimo per vedere esattamente le licenze. E vabbè, questa no, un attimo, ecco, Nogari, Wikidata, vabbè. Vogliamo due parole su Wikidata? Sì. Che è un altro progetto della Wikimedia, legato a Wikipedia. Sì, è una cosa un po' più particolare perché è un database appunto che contiene questi dati relativi a, in questo caso, Nogarello, che possono essere usati in tutti i progetti, wiki, quindi Wikipedia e i cosiddetti progetti fratelli. Questo perché? Perché l'idea è che la cosa era nata da questa necessità. C'erano alcune pagine, tipicamente quelle relative a persone molto famose, che contenevano dei dati che venivano ripetuti. Cioè, la voce sulla scoperta dell'America è probabilmente presente in 250 versioni linguistiche di Wikipedia che dicevamo prima. E ogni pagina diceva che l'America è stata scoperta nel 1492. È inutile che questo dato venga ripetuto e ricopiato su ogni... È meglio fare una database centralizzato in cui io posso andare a dire quando è stata scoperta l'America nel 1492, questo dato sta in un posto unico, così che io non lo devo ricopiare mille volte con il rischio di commettere degli errori. Wikidata è esattamente questo, cioè un posto in cui si possono raccogliere tutti i dati relativi a un certo elemento, in questo caso un ungaretto. Ci possono essere cose come del tipo la popolazione, dai censimenti ISTAT, il codice di avviamento postale, poi vediamo città gemellate, gemellate, sì. Eccetera, eccetera. Aggiungo una cosa, come le immagini che stanno su Wikimedia Commons possono essere utilizzate poi non solo da Wikipedia ma da chiunque, anche i dati che stanno su Wikidata possono essere utilizzati da chiunque. E la cosa importante è che sono dati e sono fatti in modo da essere leggibili facilmente da una macchina. Cioè le informazioni che stanno su Wikipedia, non da un'auto, da un computer. Nel senso che le informazioni che stanno su Wikipedia sono scritte in forma discorsiva, per cui una persona le legge, se sono nella sua lingua, un computer fa più fatica. I dati qui sono messi in maniera tale che possono essere letti da un software, quindi se voi dovete fare un database, qualcosa in cui serve una certa informazione su tutti i comuni italiani, probabilmente su Wikidata li trovate e sono dati liberi. Cioè voi non è che potete in teoria andare su un database qualunque per tirare giù tutte le informazioni. Qua potete e si possono fare un sacco di cose. Non so se abbiamo qualche esempio su cosa si può fare su Wikidata, se andiamo avanti. Sì, ci sono. C'era qualche applicazione che, per esempio, ci sono alcune applicazioni che per esempio usano questo e usano l'immagine da Wikimedia Commons per esempio per visualizzare su una mappa tutti i monumenti che ci sono in un comune. E questo è possibile appunto perché tutte le immagini che sono su Commons e tutti i dati che sono su Data si possono riutilizzare e la possibilità di riutilizzare questi dati permette anche di creare cose nuove. Tra l'altro molto spesso la mappa che viene usata, anzi diciamo quasi sempre, mappa che viene usata è OpenStreetMap, che è un altro progetto di cui vi parliamo adesso. E vi facciamo rilascio la parola a Nicolò e poi Maurizio. Sì, allora qui, vabbè, questo è un sito che serve per confrontare mappe diverse. Adesso da lontano non so quanto si vede, comunque vabbè, a sinistra c'è OpenStreetMap, a destra è Google Maps. E credo che riusciate a vedere anche da lì che sono molte più cose su OpenStreetMap che su Google Maps. Posso fare parliamo di Nogaredo. Posso fare un sondaggio? Quanti di voi hanno sentito parlare di Google Maps prima di adesso? Ok, facciamo. Chi non ha sentito mai sentito parlare di Google Maps? Andiamo in 100%. Chi non ha mai sentito parlare di OpenStreetMap prima di adesso? Un po'. Ok, quindi... Vabbè, OpenStreetMap è simile a Wikipedia. Le persone raccolgono dati con informazioni geografiche e le rendono disponibili a tutti. I dati vengono raccolti, inseriti in OpenStreetMap e trasformati subito in mappe. Però i dati sono sempre disponibili per qualsiasi tipo di uso. In questa immagine qua, più che, vabbè, voi siete lontani, non vedete, perché probabilmente da laggiù, guardando poi il riflesso nello specchio che vedo lì, vi apparirà che la parte quella di Google Maps è completamente grigia, mentre quella di Nogaredo la vedete verde. Allora, al di là di questo, solitamente quello che faccio sottolineare su questa immagine è che forse, ripeto forse perché è questione di gusti, quella di Google Maps è più leggibile, perché magari quella di destra è troppo ricca, ma la ricchezza che c'è dentro invece, secondo me, evidenzia la generosità di queste persone che usano il loro surplus cognitivo anche per raccogliere dati geografici. Come andiamo a raccogliere questi dati? Ma prima di tutto possiamo andare a correggere i dati. Ad esempio, se la toponomastica, e che mi sembra non sia molto ricca all'interno di quello che ho visto su OpenStreetMap di Nogaredo, è assente, manca il nome della strada, posso collegarmi a OpenStreetMap, cliccare sulla strada e metterci il nome. Magari voglio mettere il nome completo, nome e cognome, perché spesso e volentieri nelle vie si trova soltanto il cognome o il nome. Il classico caso del nome è Piazza Dante, Via Dante, non è mai Via Alighieri, Piazza Alighieri, da quel che ho visto per esperienza, però il nome è Dante Alighieri. Così come altre cose che si possono inserire sono le informazioni della direzione del senso unico, se c'è, se ci sono passaggi pedonali. Una cosa che fa sempre, quando lo vedo tutti fanno, oh, le fontanelle dell'acqua. Dove sono le fontanelle dell'acqua? Adesso siamo senza rete, non posso farvi vedere. In realtà sì. Ah, c'è la rete, vabbè, magari vediamo se dopo. Noi possiamo fare, interrogare OpenStreetMap e farsi dare dove sono le fontanelle dell'acqua. È chiaro che quel dato lì l'ha messo delle persone. Non c'è un discorso molto legato alle fonti come in Wikipedia, perché sono dati, e i dati sono cose oggettive. Che quella via si chiama così, è oggettiva, anche se non sempre oggettiva. A Trento c'è una piazza, ma in tutte le città, non è anche Rovereto, delle piazze che hanno più il nome. A Trento c'è Piazza Cesare Battisti, che chiamano tutti Piazza Italia, che è il nome che c'era prima. Le ricorderò sempre, il mio collega americano entra in mio fisso e mi dice Napo, napoletano, Napo. What is Piazza Italia? Dai, James. Qua, c'è una mappa di Trento dietro la schiena, non è che guardato, ho fatto così, tiro sul dito, Piazza Cesare Battisti, sono andato a Bordon, e ho detto, però è così, e mi ha fatto vedere il volantino che le hanno dato che c'è la festa a Piazza Italia. Così come a Rovereto c'è Piazza del Nettuno, Piazza Battisti, Piazza delle Fontane, non so, mi ricordo più, a Rovereto ci sono sempre le piazze, più del nome, a dire la verità. Comunque posso aggiungere entrambi i nomi, infatti se voi andate su OpenStreetMap e cercate Piazza Italia Trento, mi fa vedere Piazza Cesare Battisti, perché qualcuno ha inserito anche il nome alternativo, il nome locale. Sì, così come l'altro giorno a Caliano ho tolto la macelleria che ho chiuso e ho aggiunto un tabacchino che aveva aperto da un anno che non era ancora. Queste cose qua comunque del mappo. Google Maps non te le fa, in realtà poi ci arrivo anche lì, ma preferisco raccontare questa storia, che è una storia che abbiamo vissuto più o meno tutti. Vi racconto la storia del mio amico Zotti, che adesso è lì al mercatino. Praticamente diceva che lui era a Pisa in automobile, aveva il tonton, tra l'altro con la voce, adesso non ricordo più, il comico trentino, quello che fa il doppiaggio, il nome, Super Mario. Ah. Che aveva il tonton sotto, che lo guidava, era sulle colline di Pisa, si perde, attiva il tonton per tornare a casa e continua ad andare a quelle di Pisa. Era anche ora di pranzo, a un certo punto non c'era niente intorno, la strada andava verso una casa. Ma che faccio? Guarda l'amorosa, arriva, le fa andare, c'è solo questo, andiamo. Arriva, arriva davanti a questa casa, è estate, c'era una bella famiglia che stava pranzando, imbarazzatissimo, inizia a tirare giù il finestrino, tonton, perché i dati di tonton portavano lì le automobili. Sì, questa famiglia era abituata, ha detto vai sempre dritto, non potresti andare, troverai un sacco di vieti di transito, ma vai, che a Pisa ci arrivi. Ed è arrivato a Pisa per quello. Di storie di persone che sbagliano la strada, ce ne sono tantissime. Google Maps. C'era un concerto di Vasco Rossi a Padova, allo stadio Colli Euganei, adesso non ricordo esattamente, e praticamente se cercavate il nome dello stadio, stadio Euganeo, insomma così, vi mandava a uno stadio che c'è in Via Euganeo a Stra, che è un paese vicino, provincia di Padova. Oh, la gente del paese di Stra, il giorno del concerto di Vasco Rossi, ha iniziato a vedere un'invasione di automobili, perché la mappa di Google li mandava lì. Riportare al posto sbagliato. Allora, ok, ci fidiamo, ci fidiamo tutti di Google, no? Vogliamo modificare le cose, Google ve lo permette di fare, però ricordatevi che quello che state facendo poi è scelta vostra, non è, io non mi dico che è sbagliato, perché comunque alla fine ammetto che Google lo usano tante persone, l'ha provato anche prima Cristian a fare un sondaggio. Leggete termini di utilizzo, perché quello che fate diventa di Google, non è più vostro. Quello che fate in OpenStreetMap è disponibile a chiunque. C'è già qua, perché ci tenevo a dire che la differenza appunto non è soltanto nella qualità dei dati, delle informazioni. Ah, questi sono i termini di utilizzo di Google Maps, qua forse riesco a leggerli, comunque anche per riutilizzare, non solo le cose che voi mettete non sono più vostre poi, ma non possono essere riutilizzate fondamentalmente. Cioè voi in teoria voi non potete prendere la mappa di Google Maps e usarla per le cose, per le vostre cose. I termini d'uso di OpenStreetMap, adesso qua, vabbè, qua non riuscite a leggere, comunque vi si dice potete fare un po' quello che volete, basta che mettete copyright OpenStreetMap, i contributori di OpenStreetMap. Fondamentalmente soltanto questo. Di rispettare la comunità. Quando, ma questo vi ripeto nuovamente, sono di parte quando parlo, però vorrei cercare di essere neutrale nel dirlo. Quando contribuite a un progetto, qualsiasi progetto, ci sono i termini di utilizzo. Dopo dovete capire, se volete capire, perché magari c'è sempre il vantaggio che non riceve, se state costruendo un bene comune, come Wikipedia o OpenStreetMap, o state facendo una situazione che viene definita una mezzadro digitale, in cui voi date il vostro contributo a un'azienda che diventa più ricca, ma che comunque vi permette di lavorare ugualmente. Un esempio, il mezzadro. Lui è un grande proprietario terriero, ma non c'ha il tempo di poter sistemare, di poter piantare le mele. Io sono capace di piantare le mele, di curare le mele, allora divento suo mezzadro. Ed è una situazione in cui vinco io e vince anche lui, perché lui senza il contadino che gli va a curare le mele non ha le mele, e io senza la terra non ho le mele. Quindi è una situazione da mezzadro. Il mezzadro digitale cos'è? Sono Google, sono YouTube. YouTube senza i video cos'è? Però se io voglio pubblicare un video online mi costa molto di più che metterlo su YouTube. I termini di utilizzo dicono tu puoi farlo, hai il tuo vantaggio, sappi anche che ho il mio vantaggio. Nel caso invece di OpenStreetMap e Wikipedia ti dicono fallo e beh, stai costruendo un bene comune. Dopo c'è un limite che è quello che non puoi chiuderlo. Ma un po' come quando ci arrabbiamo quando ci dicono che l'acqua viene privatizzata. O ci dicono adesso l'aria che respiri la devi pagare. Che vantaggio ha un comune, un municipio, ad avere i dati aggiornati su OpenStreetMap? Una comunità. Allora, a parte una comunità è la parola che mi piace di più. Comunque, qua ho tutta una sequenza di cose che Cristian ormai è stufo di sentire. Domani ho un appuntamento in provincia, devo fare una lezione in cui dirò ancora queste cose. No, la prima di tutto, banalissimo, ma la toponomastica la decide il comune o la decide Google? Io quando vedo sul sito del comune di X, anzi, mi dico anche no, il comune di Trento, che ha un sacco di persone che lavorano, che hanno un sistema cartografico bellissimo, che usano la mappa di Google. E io vi posso dire che la toponomastica a Trento cambia abbastanza spesso. Ci sono strade nuove, parchi nuovi, di recente ho fatto un giochino spinto da alcune persone che me l'hanno chiesto, ho fatto la mappa delle strade di Trento dedicata a personaggi distinguendo tra uomini e donne. Guardando questo ho anche riguardato un po' di toponomastica che è cambiato, ad esempio ho scoperto che il Parco Santa Chiara non è più Parco Santa Chiara, si chiama Parco Stranozzi. Sapete come si chiama adesso? Solzhenitsyn. Non riesco neanche... Non si riesce a leggere la... Io non riesco a pronunciare una cosa... Solzhenitsyn, sì, non so. No. Comunque sono cambiati un po' di nome. Però è il Comune di Trento che decide come cambia la toponomastica. Se mi mette la mappa di Google, quella strada lì non si più. Dopodiché l'altra questione è, il comune dovrebbe avere un aspetto neutrale, perché sulla mappa del comune deve apparire il suo negozio e non deve apparire il mio negozio, o non appare nessuno dei negozi, okay? Oppure appaiono quelli per cui il comune dà, concede questa cosa. Quindi è importante che il comune prima di tutto usi i suoi dati e presenti i suoi dati, perché bene o male sono quelli che hanno più affidabilità. Dall'altra parte però, ed è per questo che mi piace di più la parola comunità, una comunità attribuisce a luoghi dei nomi che sono più vicini a quello che sente la comunità. E quindi riuscire a riportare anche questo tipo di conoscenza sulla mappa è importante. Le cose che fa Davide con Porto Beseno vanno oltre la toponomastica, raccontano le storie di come si percepisce, si percepiscono i rumori in Vallagarina, si va oltre, chiaramente però bisogna avere sotto una mappa. Allora una mappa di OpenStreetMap mi porta a questa neutralità. Allora una pubblica amministrazione, se non ha la possibilità di usare le sue mappe, può usare quella di OpenStreetMap, e se dopo lo facciamo in maniera partecipata, quella mappa diventa più nostra di prima. C'è questo concetto delle mappe di comunità in cui le persone raccontano, che possono i lavori che in buona parte fa Davide, come loro percepiscono il posto dove vivono. Io penso che, non so quanti sono in Nogaredo, ma non è un problema, poter raccontare qualcosina in più su quella mappa è importante. Che ho sentito, fondamentalmente, l'autoponimo. Ma ti racconto questa storia, cioè vi racconto questa storia. Tempo fa, insieme all'amico Cristian, stavo battendo così per dire. Siamo stati, ci hanno chiamato a Vervoe. Sapete dove è Vervoe? Val di Non. 900 metri di altitudine, 700 abitanti a rovescio, non mi ricordo più. Ci hanno chiamato a una serata in cui è successo che uno delle persone del paese, l'ingegner Ezio Trentini, che ha girato il mondo, ha detto: Vervoe, stiamo bene, sappiamo le mele, però abbiamo dei sentieri, abbiamo lavorato anche tanto per costruire dei percorsi naturalistici, noi pensiamo che il nostro posto è bello. Allora, vorremmo portare qualche turisti, vorremmo avere una mappa dei nostri sentieri. Guardano Google, al tempo, perché poi anche Google per fortuna si aggiorna, c'era soltanto la strada principale del paese. Come potremmo fare a costruirci qualcosa? Cercano un archivio, vecchie foto. A un certo punto un'altra persona di Vervoe dice: ma ci sono napoletano con sogni che continua a parlare di OpenStreetMap, venite a Vervoe a raccontarcela. Allora andiamo su Vervoe, ci portano nel centro del paese in un bar pizzeria e c'era la wifi. Andiamo in una stanza che era la metà di questa, cioè piccolina, e c'erano più o meno un numero di persone che c'è stasera. Però la cosa bella è che c'era il vecchio del paese, 90 anni, c'era il responsabile del gruppo cacciatori, vigili del fuoco, e gli abbiamo spiegato cosa è OpenStreetMap, e gli abbiamo spiegato anche come contribuire. Ma ci fanno? Grazie, facciamo sapere. E poi vengo a sapere che la giunta comunale decide di dare 1000 euro al gruppo giovani. Questi 1000 euro al gruppo giovani, 500 euro sono per l'attività del gruppo giovani, 500 euro per l'attività su OpenStreetMap. Loro cosa fanno? Come raccogliamo i dati? Vi dicevo, un modo per raccogliere i dati è modificare i dati già presenti. Un altro modo è ricalcare la foto aerea, di cui ti ha dato il permesso. Un altro modo è raccogliere proprio i dati da, magari con lo smartphone, faccio una fotografia a un ingresso, c'è il numero civico, a quel punto la fotografia delle coordinate geografiche e aggiungo e dico cos'è l'informazione. Okay? Con GPS posso raccogliere il percorso, eccetera. E c'è anche che il nostro caro amico che raccoglie gli scontrini fiscali della mamma, perché così è il numero civico e anche l'attività commerciale. Venendo dalle foto aeree dell'edificio, sa che quello lì è il numero 44 e c'è il tabacchino. Ci sono tanti modi, abbiamo raccontato tutti questi modi e il gruppo giovani si è attivato. Non abbiamo più sentiti per un po'. Però è partito il progetto, che è una parola che si usa tantissimo, M'appare, mi appare Vervò. Chiamano me da qualche mese, Cristian purtroppo non c'era, e fanno una serata in una sala 4 volte più grande di questa, con 4 volte di più il numero di persone, a raccontare cosa ha fatto il gruppo giovani. Vedo la mappa di Vervò piena. Poi loro mi dicono che hanno deciso di premiare il miglior contributore. Allora chiedono a me chi è che è il miglior contributore. Inizio a guardare esattamente come in Wikipedia vedete la cronologia. Ho guardato in OpenStreetMap, ma io guardo e dico, ma io qua veramente mi dico, no, stiamo di far vincere Michele, ma io veramente qua io farei vincere Paolo. L'utente era Paolo Comai. No, ma lui non può. Ma perché non posso? No, lui non può. Paolo Comai, 86 anni, il maestro del paese, che ha scritto un libro sui toponimi della Val di Non, li conosce tutti, si è messo lì in sedi. E per me era lui quello, il vincitore, se il discorso era il volume. Poi in realtà erano tutti vincitori morali, perché alla fine ha deciso di dare il premio in maniera equa a tutti quanti, e non soltanto premiato le persone che ha partecipato. Erano in 4 che hanno partecipato e hanno creato questa mappa qui. Dopo da lì, in realtà, ci sarebbe da metterci ancora un pochino più di energia, perché in realtà OpenStreetMap, hai altre immagini, non so. Quelle sì. Allora, questa è una licenza che ecco, ad esempio OpenStreetMap qua, quello lì è sempre Logaredo, vista in 8 modi diversi. Praticamente, essendoci dati, io posso estrapolare i dati e ripresentarli in maniera diversa e mettere in evidenza altre cose più o meno importanti. Ad esempio c'è quella lì che vedete, cercate di vedere come vedete da lì, ce n'è una che c'è una striscione nero sopra, no? Quella lì è bianco e nero. Ci sono altre colorate che servono più a far vedere ad esempio le informazioni per chi va in montagna, altre che sono pensate invece per i trasporti pubblici, altre che sono un po' più belline, ce ne sono alcune anche, ce ne sono altre? Ho visto ieri che è partita la campagna per il sediero vista dei disabili, no? Sì, infatti quello che ricordo adesso. Questo qua ad esempio è OpenStreetMap che recupera i dati e ve li fa vedere in 3D, sempre su Logaredo. Pensate che quelli edifici là magari non sono perfetti, ma non so chi è stato, non sono andato a controllare, ma c'è una persona che si è messa a disegnarli guardando la foto aerea. Adesso non so se qualche edificio c'è ancora, il castello, visto che si vede Castello Arma, si vede addirittura anche la distilleria sotto, il Mazzadro. Chiaramente non si vede con tutto come è fatto, anche se c'è chi si mette a dire come è fatto il tetto, quanto è alto, eccetera. Ce n'è un'altra, vero? No. E fa lo stesso. C'è queste... E poi questi dati possono essere rilasciati dall'amministrazione pubblica? Questi dati spesso ci sono dati che vengono aperti dalla pubblica amministrazione che la comunità poi importa. Ma tra le tante cose divertenti di OpenStreetMap c'è una mia amica che fa delle borse, si chiama DressMap, con la mappa della vostra città, con la rappresentazione che volete voi, in ecopelle. Allora, lei ha regalato una borsa a mia moglie. Mia moglie è cinese, è qua. Non ce ne sono tanti cinesi, quindi fate presto a sapere chi è. E quando lei è arrivata nella sua città Dalian, che è al nord della Cina, 8 milioni e mezzo di abitanti, è arrivata all'aeroporto e aveva questa borsa, la guarda e fa, ma dove hai preso quella borsa? Perché era la sua città, con sopra scritto Dalian in cinese. Ma dove l'ha presa? In Italia. Ma come? In Italia fanno le borse di Dalian? Sono rimasti tutti sorpresi. E lì un altro messaggio importante, il fatto che costruendo qualcosa, che è la mappa del posto dove vivo, che è molto vicino come io lo vivo, arrivo più velocemente nel cuore delle persone e posso anche creare dei prodotti personalizzati che prima non c'erano. Che era una borsa così per una mappa di per sé, non è niente di nuovo. C'è Davide che mi raccontava di una ragazza qua intorno, non so esattamente dove, che cuce sopra le lenzuola i toponimi della Valle Agarina, che le rappresenta così. Qua però abbiamo disponibili i dati. Ci sono tante applicazioni, c'è anche l'applicazione che vi permette di avere lo stradario. Nel senso, voi disegnate un rettangolo, vi fa sulla mappa, riproduce la mappa con sopra una griglia e sotto tutti i nomi delle vie, luoghi di culto e gli uffici pubblici. E la trovate via Zandonai 3F. Faccio una breve parentesi, queste sono le classiche mappe turistiche che hanno i comuni e che pagano fior fiore alle imprese di grafica, no? Che propongono questi servizi quando c'è OpenStreetMap. Allora, ti dico questa, a Trento adesso ha aperto un ristorante vegano che fa parte di una catena, mi ha dato il biglietto da visita, c'era dietro la mappa di OpenStreetMap, perché da una parte lì è più comoda perché è più aggiornato e dall'altra mi ha detto tipo nessuno ci trova su Google, quindi ho iniziato anche a usarla in quella direzione lì. Un altro aspetto interessante, che era poi quello che stava dicendo adesso Davide, dato che dentro OpenStreetMap potete mettere qualsiasi cosa, è tutto un sistema che è basato su chiave valore, avete una chiave tipo, e purtroppo sono in inglese, ma non vogliamo, highway è la chiave principale, uguale primary, che vuol dire che è una strada principale, ok? Se metto amenity uguale drinking water è la fontanella e vado a inserire queste etichette, non posso inserire neanche altre, ma posso anche inventarle, poi non è furbo inventarsele, sono decise dalla comunità dal basso verso l'alto queste scelte qua. Si può mettere l'impossibile. Allora c'è un ragazzo a Berlino che vive in una carrozzella grande così. Lui ha problemi dell'accessibilità, quando è nato il progetto Wheel Map. E praticamente c'è questo progetto che si basa su OpenStreetMap in cui si mette il livello di accessibilità. Il 3 dicembre c'è questo sito, è Map My Way, Map la mia strada. E stanno chiedendo a tutto il mondo di fare questa raccolta di dati per dire se le carrozzelle ci passano. Ci ha spiegato molto bene anche in italiano come funziona. Di per sé l'applicazione è già pronta per smartphone, si chiama Wheel Map appunto, la tirate su e già vi propone degli edifici. Ad esempio questo edificio qua non ho guardato, ma se è stata messa l'accessibilità ve lo propone e vi dice dimmi se è accessibile. E dopo sono tutte le regole da rispettare e quindi a quel punto si può tranquillamente partecipare a un progetto che lo stiamo facendo a Nogaredo, ma stiamo aiutando le persone in qualsiasi parte del mondo. Cioè, potenzialmente noi possiamo segnare sull'edificio municipio di Nogaredo se l'edificio è accessibile o no. In realtà sono quattro livelli di accessibilità, grigio che non è accessibile, cioè non si sa, però già metterlo è buono, rosso, verde, giallo. Però andando a vedere bene la spiegazione, dipende poi se si tratta di un municipio piuttosto che di un bagno, piuttosto che di un albergo, eccetera, perché l'esempio verde è che in qualsiasi posto dell'edificio, magari pubblico, ci passo, che c'è il bagno per disabili, che raggiungo tutte le stanze. Mentre nel caso di verde per un bagno, è che il bagno deve essere largo, almeno, scusa, non il bagno, metti un ristorante, la porta deve essere larga tot centimetri. Allora, verde, già arancio, giallo, rosso, si risceglie con queste cose. Parlando una volta con un disabile che fa questo di lavoro, mi ha detto che era troppo semplice. Dall'altra parte mi ha risposto, però già se ho un'idea di dove ci passo o non ci passo, già mi permette di filtrare l'informazione e poi dopo andare a fare un'ulteriore visita sul posto. Sono tantissime le storie che si possono raccontare, potrei stare qua a parlare ore, quindi mi fermo. Così parlare, magari mi viene che quello che mi ha colpito tanto di Haiti. Sì, vai tu. Vai. Cioè, ci sono altre due cose, e una è questa, appunto. Un altro dei problemi che ci sono quelle mappe, appunto, quelle mappe non collaborative, come Google Maps, o le mappe del TomTom che si diceva prima, è che ovviamente chi decide quale area va mappata è Google piuttosto che Navtech, cioè l'azienda che sta dietro al TomTom, e purtroppo quello che succede è che in Italia, diciamo, le aree sono ben coperte, ma se vivete in un'altra zona del mondo che è meno centrale, magari lì la mappa non esiste. Una cosa molto importante che è stata un po' la dimostrazione appunto di quello che si può fare con una mappa collaborativa è quello che è successo nel 2010. Nel 2010 c'è stato un grossissimo terremoto ad Haiti ha colpito in particolare l'epicentro vicino alla capitale Port-au-Prince. E cosa è successo? È successo che c'è stata una diciamo, chiamata alle armi di tutti i volontari del progetto OpenStreetMap, cioè di tutti questi mappatori, per dire mappate le strade di Haiti in modo tale che i soccorsi possano arrivare. Ora, per spezzare una lancia e per non dire appunto, non voglio necessariamente dire le aziende sono cattive e la comunità è buona, perché per esempio cosa è successo in quell'occasione? Alcune aziende, Google compresa, hanno rilasciato il permesso di ricalcare le foto aeree satellitari, hanno prodotto delle nuove foto satellitari dell'area appena dopo il terremoto, hanno dato il permesso alla comunità di ricalcare le informazioni, quindi di ridisegnare gli edifici, le strade a partire da queste foto, e quello che la comunità ha fatto è stato produrre una mappa aggiornata della capitale di Haiti dopo il terremoto. Cosa voleva dire questo? Voleva dire segnare, per esempio, che guarda che questa strada non è più percorribile perché è caduto il ponte, oppure ci sono dei detriti, per cui si vede anche dalla foto satellitare che tu non puoi passare di lì, oppure questo edificio è crollato. E questa cosa, il fatto che tutti potessero partecipare, ha permesso alla comunità in 2 settimane di mappare molto molto bene Haiti, e le organizzazioni umanitarie, quindi gli interventi umanitari che sono arrivati a Haiti subito dopo il terremoto, potevano scaricare questi dati, e tra l'altro ci sono dei convertitori che permettono di usarlo anche sui TomTom, che si diceva prima, per cui le squadre di soccorso utilizzavano i dati di OpenStreetMap, li scaricavano sul loro TomTom e poi erano sul campo a portare soccorso avendo l'informazione aggiornata. Questa cosa, voi dite, è successa ad Haiti, ma è successa anche in Sardegna. Certo, ma anche in Nepal di recente. La Sardegna è un po' più vicina a noi come concesso. Sì, dicevo la Sardegna perché appunto è più vicina a noi. È stato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, c'è stata un'emergenza a Sardegna a causa di un nubifragio, sono morte delle persone. E c'era una ragazza, scusa se sto preso questo problema, che ha iniziato praticamente non tanto a produrre la mappa per gli aiuti umanitari, ma a produrre una mappa per aiutare le persone, perché sarà creata una comunità di reciproco aiuto tra le persone che devono lasciare le loro case e lasciare i loro oggetti. Allora chiedevano ad altre persone dove posso andare a dormire, dove posso lasciare i miei oggetti. Quindi hanno creato questa mappa che era sopra OpenStreetMap, in cui dicevano questa c'era la domanda, dall'altra parte c'era l'offerta e si incontravano. Il problema era che la mappa che c'era sotto era quella di Google e non era cambiata. La copertura di numeri civici, di edifici, non c'era. La regione, purtroppo, sono usciti dei morti, perché cadesse questo, ha rilasciato dei dati, quindi anche chi non conosceva il territorio ha iniziato a fare un lavoro di importazione di dati o di fotoricalco, e quindi questa mappa qua è diventata molto più utile di prima, perché prima era soltanto da qua là. E aggiungo un'altra 2 cose, chi era in Nepal, volevo dire solo in Nepal, questa cosa che abbiamo fatto. E abbiamo organizzato, quando c'è stato il terremoto in Nepal, che tra l'altro è anche stato molto sentito in Trentino l'anno scorso, ma il fatto che c'erano anche parecchi trentini escursionisti. E abbiamo organizzato con la Biblioteca Comunale di Trento mappare per il Nepal. È stato bello. Eravamo un po' di più di persone stasera e abbiamo insegnato come fare. E è interessante perché c'è questo gruppo che si chiama Kathmandu Living Lab. Living Lab è un laboratorio vivente, aperto, no? E Kathmandu è la capitale. Ci sono questi ragazzi che praticamente loro hanno questo laboratorio finanziato da World Bank, in cui loro dicono: siamo convinti che attraverso gli open data, ossia dati resi disponibili attraverso OpenStreetMap, attraverso la nostra capacità con l'informatica, possiamo migliorare la vita del nostro paese. Quindi loro hanno sempre fatto dei lavori all'interno del laboratorio di sensibilizzazione della popolazione, hanno iniziato a raccogliere anche i civici, a Kathmandu che i civici non ci sono, è un po' un casino spiegare come funziona lì, comunque hanno iniziato a fare una mappa aggiornata. Quando c'è stato il terremoto, c'è questa foto molto bella, che loro sono fuori dall'edificio, su un tavolo, che stanno lavorando al computer, che stanno organizzando quelle che sono le missioni per il gruppo che si chiama HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, dove praticamente loro da lì coordinavano cosa raccogliere. Dicono, i dati che ci servono sono strade, case distrutte, accampamenti, posti dove possono atterrare gli elicotteri. C'è questo sito che si chiama Task, dove mettono fuori le missioni, mettono fuori la mappa, c'è questa mappa, scelgo un quadrato, faccio il mio compito, magari il compito è disegnare gli edifici o disegnare la strada. Dopodiché quello che viene inserito lo estraggono i dati e cercano di dargli una validazione. Noi eravamo con un gruppo di persone misto, ancora più variegato delle persone che c'erano qua, perché c'erano delle bambine. E le bambine, un po' di persone, quando ho capito cosa stavano facendo, non era banalmente disegnare un rettangolo di un'immagine che c'era sotto, ma era salvare la vita a qualcuno. E lo stavano capendo. E questa cosa qua è stata molto bella, vedere questa generosità che noi facciamo condividendo cosa? Conoscenza, i nostri skill, quello che abbiamo imparato, in maniera molto semplice. Vai con chi bella. Sì. Per tornare dal Nepal all'Africa, un altro caso che è stato molto, diciamo, importante è quello di Kibera, una città in... È una bidonville che si trova a Nairobi, Nairobi. 150.000 abitanti. E che non esisteva sulla mappa, perché era una bidonville, quindi erano appunto delle, non erano delle case, ma erano sostanzialmente delle capanne costruite con materiali di terra. E queste persone sostanzialmente non esistevano, non erano sulla mappa e quindi non esistevano, perché anche questo è il problema. Se non si è rappresentati, si rischia di non esistere. E qui però c'era una città sostanzialmente, che aveva tutti i bisogni di una città, cioè che esiste, che dove sono i punti di primo soccorso, dove sono i punti dove posso trovare dell'acqua potabile, eccetera. E sono i punti dove posso ricaricare il telefono, peraltro, perché sono senza corrente elettrica, allora sono come dei negozi che vendono corrente elettrica. Io vado, lascio il telefono, che poi in realtà il telefono mi serve come pila per guidarmi per arrivare a casa. E le strade possono sentire. E quello che si può fare, che avrebbe fatto OpenStreetMap, è stato disegnare la mappa del posto dove vivevano e poi utilizzarla. Infatti, tra l'altro, una delle la versione un po' più marroncina è appunto una modo di rappresentare la mappa, che è quello usato dall'Humanitarian OpenStreetMap Team, che è quello che diceva Maurizio prima, e quello che per esempio questa visualizzazione evidenzia sono i punti di primo soccorso, sono i punti in cui c'è l'acqua potabile, sono i punti in cui ci sono i luoghi di culto, per esempio. Anche dove sono le latrine, perché sì, qua non ce le hanno in caso. E quindi diciamo, è una visualizzazione della mappa che è basata su questo tipo di informazioni. E ovviamente questa cosa ha avuto un impatto molto importante per la comunità lì, per questa comunità di persone. Aggiungo solo due cose su questo. Il motto creato da Kibera è rendere visibile ciò che è invisibile. E arriva abbastanza forte come messaggio. E comunque, per quanto possa sembrare sciocco, ci sono tante cose, anche a Trento, anche a Novereto, dove ho detto che su altre mappe appaiono invisibili, e sulle fontanelle dell'acqua. Vogliamo rendere visibile ciò che è invisibile. Così come l'ultimo aspetto che ci tengo a sottolineare è il fatto che, se voi guardate quel tubo che vi ho fatto vedere prima, Nicolò, che no, non serve che torni indietro, che poi è lo stesso che c'è qua, che mette in confronto fra di loro mappe diverse, c'è anche la possibilità di confrontare Google Maps con la foto aerea di Google Maps. Andate su Kibera. Adesso è cominciato a apparire qualcosa, ma c'è scritto Kibera, guardate la foto aerea, è piena di tetti. Perché Google non mappa Kibera? Ma che interesse ha Google come azienda di mappare Kibera? Che gliene frega? A meno che non gli dà un ritorno d'immagine. Ho mappato Kibera, ho salvato una comunità, sono figo, e quindi la mia azienda è un'azienda sana. Ma al di là di quello, il fatto di mappare, di non far vedere determinate cose, alla fine, volenti o nolenti, Google risponde bene alle richieste della maggior parte delle persone. Vi faccio due esempi velocissimi. Google, se voi avete un bed and breakfast, prima o poi vi telefona e vi chiede se esistete. Perché Google guarda giustamente che ricerche fanno le persone su Google. Se cercano un bed and breakfast, loro vogliono che Google risponda sempre bene. Allora chiama, tra parentesi, riescono a stanare, non lo vogliono fare, ma anche quelli che sono abusivi. Tanto loro non gli frega niente, loro vogliono soltanto che loro tenta bella risposta.